269. Petti di pollo alla sauté. Il miglior modo di cucinare i petti di pollo mi pare che sia il seguente, perché riescono delicati al gusto e fanno tale comparita che un petto di capone può bastare in un pranzo per 4 o 5 persone. Tagliate i petti a fette sottili quasi come la carta. Date loro la miglior forma che sarà possibile. E dei minuzzoli che ricavate nel ripulir bene lo sterno, formatene un intero pezzo, unendoli insieme e schiacciandoli, poi conditeli con sale e pepe e metteteli in infusione nelle uova frullate. Dopo qualche ora passateli nel pan grattato fine e cuoceteli con burro nella sauté o in teglia. Se li aggradite naturali, basta l'agro di limone. Se poi li volete coi tartufi, potete trattarli come le cotolette del numero 312, oppure nella maniera che segue. Prendete un tegamino di metallo, versate nel medesimo tant'olio che appena ne ricopre il fondo, distendete un suolo di fettine di tartufi, spargendovi sopra pochissimo parmigiano grattato e una presa di pan grattato. Ripetete la stessa operazione per 3 o 4 volte, secondo la quantità, e per ultimo condite con olio, sale, pepe e qualche pezzettino di burro, il tutto a piccole dosi perché non nausei. Mettete il tegame al fuoco e quando avrà alzato il bollore, annaffiate con un ramaiolino di sugo di carne o di brodo e un po' d'agrume di limone. Ritirate presto dal fuoco questo intingolo e versatelo sopra i petti già rosolati nel modo anzidetto. Non avendo i tartufi, servitevi di funghi secchi rammolliti, tritati all'ingrosso, e se manca l'agro di limone, ricorrete al sugo di pomodoro o alla conserva.